Fabio Rovazzi, probabilmente l'avete sentito, è un ragazzo di 22 anni, è un appassionato di video, gli piace montare, è un appassionato di ironia, di comicità, si definisce appunto un comico del web, però poi a un certo punto ha fatto una canzone, essendo appassionato anche di musica elettronica, Andiamo a comandare, c'è tutto qui, c'è questo tormentone delle spalle, e subito è diventato il tormentone dell'estate, più di 24 milioni, saremo già più di 25 milioni di visualizzazioni. Cos'era questo, Daniele? Sono i dati di 7-8 sì. mesi fa. Come... Sì. Allora, gli avevo promesso che avrei fatto un vlog, questo per me è un vlog, cioè, è triste come cosa. Ma sembra una conferenza stampa, a parte che sembri Andrea Pellizzari, perché hai cambiato voce? Ciao Fabio. Rovazzi, l'ho fatto, ne ho fatti due. Uno ha fatto 24 visualizzazioni, di cui 10 Christian Goldoni in regia per prendere. Però ammetterai che almeno la buona fede ce l'ho messa. Iscritti come siamo messi? Al canale YouTube? Non lo so, non li ho neanche guardati. Penso i familiari, saranno 7, 8 credo. Straordinario. No vabbè, adesso dai, però scherzo. Tu quanto hai promesso? Un milione? Avevo promesso un milione. Un milione con tutte le visualizzazioni, sì, di tutti i video. Ne ho fatti due. Quindi il primo non so neanche questo. Dovevi fare un milione di video, stavi a casa subito il risultato. Esatto, un milione di bello, bello questo. Vabbè, no, era solo una scusa per dire che questi erano i dati. 24 milioni era 6 mesi fa, perché era luglio, quindi adesso chissà cosa sarà. No, ma tra l'altro, io ho perso il conto. Tra l'altro, noi avevamo invitato Fabio, ma era tipo 2 milioni e ci sembrava una cifra, cioè, pazzesca. Abbiamo detto, ma sto ragazzo, ma. Cioè 2 milioni di visualizzazioni. Eravamo due. Ma era pochissimo. Cavolo, non mi ricordo neanche. Era che pochissimo. Emozione. Che poi non era tantissimo tempo fa. No, beh, in che senso? No, 2 milioni era comunque un ottimo risultato. In generale, per me, in video musicali, 2 milioni me, è già un ottimo risultato. Per lui che ne ha fatti adesso 24. Adesso siamo a 106. Accidenti. Ma ne hai fatti tipo 1,6, se non mi guardi male, in quei 9 minuti che erano 55 che hai tagliato, dove hai detto un po' di cose che volevi dire. Sì. Di recente. Sì. Tu hai parlato di internet, sì, di alcuni sì. colleghi, più simpatici, sì. meno simpatici. Sì, sì. Mi è piaciuto molto, perché a un certo punto tu dici, ho preso gli appunti. Vai. Io considero internet un posto fantastico, lo considero il futuro di tutto, perché non impone niente a nessuno. Che bello. Oh, tutti una liberi senza perfetta. Regole. Poi sì, vabbè, ha i suoi lati positivi e lati negativi, però insomma, sai, quando non ci sono regole, cioè, comunque è tutto dato alla libertà, ci si creano dei problemi, cioè ci sono gli aspetti sicuramente super positivi, cioè guardi quel cavolo che vuoi guardare tu, però dall'altro lato ci sono anche contenuti che insomma, solitamente non si vedrebbero, quindi però è una bella giungla. Continui a non essere un cantante, però? No, quello mai. Quello no, ci no, tiene? Mai. Cioè, mai, no, proprio ci provo, ma purtroppo niente. Nella mia doccia, ne consapevo. Bella la quindi... doccia. No. Però nel tuo modo di fare musica, perché poi non sei un cantante, però fai... C'è qualcosa di ipnotico che funziona molto. Secondo te da che cosa deriva questa cosa? Proprio la prima parola che mi viene in mente quando sento i tuoi pezzi è ipnosi. Ma a livello musicale? Sì. Beh, a livello musicale sicuramente è anche il fatto che unisco tante teste, cioè siamo un bel team. Adesso nell'ultima, al posto di essere solo due produttori, sono diventati quattro produttori importantissimi a livello mondiale che lavorano con questi Vocchi, cioè, quindi comunque la base musicale è super importante, super lavorata, quindi tra virgolette i risultati si vedono. E a livello di testo comunque ci abbiamo lavorato parecchio per non renderlo trash, renderlo simpatico, semplice, ma non scadere nel trash, quindi insomma è venuta una cosa funzionante, sono contento, perché comunque era difficile replicare tutti. Vabbè. No, perché il secondo sembra malissimo prestazione. adesso il secondo no, perché il terzo certo il quarto. Beh, la cosa divertente è che nel secondo ti prendi in giro del primo Sì, no, ma in realtà non è che mi prendo in giro, sono cioè, proprio, non ne posso più di bellezza. Andiamo con andare, cioè volevo un attimo farlo capire alle persone, perché mi fermavo per strada. Il momento in cui ti ha fatto il balletto Orietta Berti da Fazio è stato abbastanza magico. Straordinario, però devi immaginare la scena, sei in ritardo, sei in pigiama sotto casa, ti è appena arrivato un pacco di Bartolini, lo stai per te, mi puoi fare il balletto? No, basta, basta. Ma soprattutto tu sapevi chi era Orietta Berti? No, ma comunque la signora che comunque la bello, oggi una bella giornata. Beh, oggi fa freddo. Già Rovazzi da Fazio era abbastanza una rivoluzione, no? Ma io e Fabio ci siamo trovati bene. Non so, pensa che si vedeva che preso benissimissimo. Sì, era un po' fuori contesto l'ultima domenica, perché comunque era un tavolo di insomma, non della mia generazione, quindi gli argomenti erano molto fuori da quello di quello che mi compete, il mio, però vabbè, insomma, comunque è stata una bella cosa, sì. mi diverto. Anche perché quelli della tua generazione per ora sono soprattutto in rete, non hanno ancora conquistato il mondo fuori come hai fatto tu. No, è anche difficile. Se qualcuno comincia. Sì, però è difficile passare dal web al nazional popolare, è proprio complicato, sono due cose diverse. Io ho avuto la fortuna che Andiamo a Comandare è diventato proprio una cosa transgenerazionale, quindi alla fine ho preso proprio tutti. Però è molto difficile fare questa cosa, passare dal web a quella roba lì. Questione di fortuna, io. No, anche perché adesso la TV, il cinema corteggia i YouTuber pensando che quelli siano la svolta, la ricetta. L'errore è anche quello, perché sono due prodotti differenti, ci sono due livelli di comunicazione completamente diversi, e poi insomma i risultati si vedono. Se una cosa funziona sul web è difficile che funzioni anche sul cinema, in televisione, in radio. Sono tempi comici differenti, proprio un modo di comunicare completamente diverso che va a cozzare completamente con quello che sono le cose classiche. Ma infatti sono visti delle cose che veramente da mani nei capelli. Il web è considerato come no, basta, il web star non posso più fare il cinema. In realtà non sono di questa idea, è che va fatto bene. Non va fatto subito. Adesso c'è questa cosa di cazzo, è diventato famoso, prendiamolo subito, mettiamolo il protagonista, bam, bam, bam. Non funziona così, devi fare cose con calma, fatte bene, studiate bene. È così che vengono fuori le robe. Io ho rifiutato un sacco di cose, infatti, perché non ha senso. Tipo, farle. Soprattutto cosa ti propongono? Ma film ho rifiutati, sì. Libri, cose, sai, te robe. L'autobiografia di Fabio sì, Rovazzi. Sì. Come mi sveglio la mattina di Fabio Rovazzi. Il mio primo bacio a stampo. Bello. Ma senti, eppure io li leggerei volentieri. Scusa, sì, certo. Però, anche a dispense. Ma no, ma beh, io poi sono di questa idea. A me piace veramente fare le cose con calma, però fatte bene. Cioè, non ha senso adesso tutta questa roba di facciamo tutto subito. Ecco, ma sui video invece, prima dicevi più produttori sulla musica, invece sul video anche l'ultimo è molto curato, c'è la storia, l'immagine. Sì. Lì lavori da solo, fai tutto tu, lo pensi tu? Oppure sì, anche... scrivo tutto io il video, è proprio l'aspetto che curo al 160.000%, passo le notti. Volevo chiederti di Enrico Papi. Com'è nata la cosa? Sei nata dall'imitazione di Tale Quale Show? Lui che mi aveva ci fatto questa imitazione a Tale Quale Show. Allora ho detto, vabbè, gli scrivo su Instagram, un mito, non mi risponderà mai. Invece mi ha risposto, super disponibile. Non mi risponderà mai, a Fabio Rovazzi non risponde. Sì. Ma vabbè, io guarda che sono sono più conosciuto, sono pirla uguale. Cioè, non è che, insomma, non abbiamo questa valenza. Credo che questo sia un grande insegnamento di vita. Sono un pirla, sono più conosciuto, ma sono un pirla uguale, sì, secondo cioè, me. Vabbè, mi ha risposto ed è risultato super disponibile, e nel frattempo avevo questo dubbio esistenziale, perché la canzone inizialmente non era censurata. Io poi d'estate mi sono reso conto di avere bambini piccolissimi. Guarda, questa sarebbe stata la domanda che ti avrebbe fatto Daniele. Mi è venuto questo senso di colpa con queste canzoni di Michael Bublé natalizio. Ho detto no, la Pausini che canta Natale. Non posso dire, alla fine ho detto troviamo una soluzione divertente. Ho trovato questa soluzione qua con Enrico Papi, che è figa come cosa, insomma. Ma a proposito della censura, tuo figlio come la canta? Suo figlio fa la terza elementare. Fa la terza elementare e... Parliamo un po' di quello che sta succedendo. Della nota, ma non interessa, avevo promesso. Pentiti! Ha preso una nota e quindi non si può, ma questo no, insomma, se no l'avresti incontrato. Raccontiamolo. Avevo promesso che avrei portato mio figlio a incontrare Fabio Rovazzi. Maestre, non ascoltate. Però, avendo preso una nota durante la lezione di matematica... Che nota ha preso, attenzione? Si distrae durante la lezione di matematica. Ma è normale, ma chi se ne frega di matematica? Ma come chi se ne frega? Le divisioni in colonna sono una cosa difficilissima, poi adesso sono cambiate. So, ma è una roba incredibile, guarda, sono cambiate... No. Allora, ma c'è l'iPhone adesso? Di cosa stiamo parlando? Maestre, non ascoltate. No, quello di cui è interessante... Salutiamo la maestra Sara. Tra un po' diventerete dei robot tipo Siri. Non servirete più a nulla. Parliamo di Fabio Rovazzi. Dunque, mio figlio già ti ascolta anche nelle parodie, cioè contemporanea all'uscita di tutto. Ma questa cosa non sei il primo che me la dice. È incredibile. Pantellas, per esempio. Beh, Pantellas straordinari. La nonna dei Pantellas. Hanno fatto una parodia. È la parodia più bella che abbia. Cioè, è bellissima. A parte che la nonna è un mito. Cioè, sa interpretare in maniera incredibile ogni cosa ed è un mito totale. No, è un pezzo di storia, secondo me rimane quel video. E che effetto fa essere oggetto di una parodia? Perché noi lo prendiamo come target di successo. Se uno è oggetto di una parodia, basta. Svolta. Quando le parodie sono belle, ti fa piacere. Quando le parodie sono fini a se stesse, nel senso, oh, devo fare visualizzazioni, facciamo la parodia di Rovazzi, e fanno una cagata, e lì, bah. Invece quelle di Pantella, cioè, proprio belle, sono studiate dalla Z, fatte benissimo, con la nonna che è un mito totale, mitologica, proprio incredibile. La nonna che le è salito l'andare a comandare, mamma la mia. Nonna. No, ma a me fa ridere quando si arrabbia che spacca le cose. Sì. No, quello è incredibile. Vabbè, comunque no, facciamo una nota per le povere maestre. Comunque è normale che ogni tanto ci si distragga durante le lezioni. Non vi preoccupate, non date note. Ne ho prese un sacco anch'io, ma perché? Perché? Poi prendi le note in matematica e diventi Rovazzi. No, ma, non, cioè, ma fa parte del gioco. Beh, no, un fa bene parte... diventare Rovazzi. No, chiariamo questa secondo cosa me bene. Sì, secondo okay. me beh, sì. Come dici tu, mi piacciono le persone geniali. Tu ti consideri una persona geniale? No. No, non posso. No, io ho detto. No, io ho fatto un. No, perché tu hai estrapolato male. Ma sei giornalista, lei come ha si dice? Fatto un'analisi errata del mio. Io ho detto. Io ammiro un sacco le persone geniali, cioè quelle che, in esempio artistico, fanno un puntino su un quadro e lo vendono a 4 milioni di euro, piuttosto che uno fa un neorealista in 3 mesi e lo vende a 4 euro. Io stimo questa cosa perché oggettivamente con poca spesa hai tanta resa, no? Il problema è che le persone credono che la mia roba sia così e non è così. Cioè, te lo cioè fa nel credere. Senso che lavori tantissimo. Sì, ho capito, ma c'è del genio anche nel lavoro, perché sennò siamo tutti rovinati. No, lo so, però il mio era un altro discorso. Cioè, è proprio interpretato male. Mi spiace. No, mi spiace. So, io gli farei una l'uscita nota. È questa. Un problema nella testa. Funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. Ma sei impazzita? No, sono in fissa per Roccazzi. Che Roccazzi, Rovazzi, nonna. Poi anche tu non sei un po' troppo vecchia. Ma tu sei vecchio. Alla nonna è salito andare a comandare. Radio Tube. No, vabbè, uno spitone veramente, cioè siamo a livelli massimi. È tornato a trovarci Fabio Rovazzi. Io sono super contenta. Abbiamo parlato delle parodie che gli piacciono moltissimo. Ma invece la politica ti interessa? No, non ne parlo. Non ne parli, ok, ma no, la segui? Un po' seguo, ma non ne parlo. Ok. Ci spiego il perché. Io ho in mano una responsabilità in questo momento, no? E, essendo che io non sono una cima, cioè non seguo al 150% la politica e non penso comunque, cioè quello che uno ha sulla politica è un'opinione, no? Quindi può essere di un tipo o di un altro. Certo. E a me non piace influenzare la gente, posso dirti. Cioè, sono cavoli miei, penso quello che voglio, perché devo influenzare un miliardo di ragazzini? Quello che dicono, boh, è una cosa che evito di fare. E invece nei confronti della stampa, dei giornalisti? Non è, il giornalismo in generale non è aggiornato molto sul web, quindi la prende sempre questo. Come la novità, in che, sì, raga, esatto, cioè da 70 anni, cioè, non so, però viene vissuta sempre come sta novità incredibile, in realtà c'è da un milione di anni e nulla, però vabbè, per il resto no, bene, insomma è stata capita la cosa, io ho paura che fosse completamente travisata, ho avuto delle riletture devastanti, quella è l'unica cosa negativa. Ecco, che ha avuto delle riletture. Cioè dei sottotesti hanno sì, trovato? Sì, politiche, robe, certo. Cose, è stata riutilizzata, Salvini, cose, vabbè, lasciamo stare. Però no, guarda, mi sono trovato bene, non ho avuto problemi. Anche perché secondo me non si ha problemi con la stampa fino a quando non si parla di gossip. Cioè? Ah, di te questo non si è mai gossipato nulla? No, nel senso che finché si parla di quello che, insomma... quello che di cui parla, esatto, va bene. Sì. Quando poi si parla di vita privata, forse lì inizia a starti un po' sulle balle la questione. Però insomma, io non ho questo problema. Io non ho paparazzi sotto casa, quindi vivo i bene. Bambini ce li hai ancora? Perché avevi le scolaresche qualche mese fa sotto no, casa? No, ho allenato il mio portinaio ad essere Jackie Chan, è diventato massacratore di bambini. Giusto. No, vabbè, non è massacratore di bambini, semplicemente, raga. So a casa mia, ci faccio un sacco di eventi, venite a trovarmi agli eventi. Non è giusto per gli altri. Senti, ma invece tra i colleghi c'è qualcuno che ti ha chiesto, che ne so, mi insegni a essere più bravo sui video, mi insegni, oppure qualche amicizia che è nata per il successo o che si è rotta per il successo? Ma mi si sono aperti un sacco di canali, di contatti che non avrei mai sinceramente immaginato di poter aprire in tutta, cioè, per esempio l'altro giorno parlavo al telefono con Fiorello, che io, cioè, per me è un mito assoluto, e no, si sono creati un po' di rapporti belli. Quello che mi ha fatto più piacere di tutti, se devo essere sincero, perché è pioniero un po' in maniera totalmente diversa da quello che faccio io, però è la stessa cosa, e gli ho le storie tese. Certo. Le storie tese, sono uscito a cena, cioè per me è una conquista assoluta. Beh, un featuring sarebbe una figata. Magari. Cioè, sarebbe. Immagino che te l'abbiano chiesto quasi tutti. Cosa, un featuring? Sì. Ma in realtà no, perché bisogna chiedere un featuring a Rovazzi, no? No, sì, io l'avrei chiesto subito, solo perché faccio un altro mestiere. Ma no, dici che sono un po' snob nei tuoi confronti? Secondo me un po' sì, dai. Io non chiederei un featuring a Rovazzi, non so come dire, cioè, facciamogli fare le cose lui. Senti, posso farti la domanda che ti ho fatto anche l'altra volta, perché così la aggiorniamo. Cosa vuoi fare da grande? Da grande, l'astronauta. Sicuramente anche a Rocco piace molto, al paleontologo, che l'hanno studiato sul bello. L'astronauta da grande, ma sai che non lo so, ma ci arriverò a diventare grande, secondo me muoio prima. Dai, è Natale, ma cosa è la vigilia cosa di Natale, si dice per che poi da un è Natale musicale, è la vigilia 2016, di Natale, cioè è la vigilia di Natale, e niente, quindi morirò. Ma secondo me farà prima o poi, io lo dico, posso dirlo, magari tu tocca ferro se non ti sta simpatico come scelta, secondo me prima o poi fa un gran film. Quello è un mio grande sogno nel cassetto, però ce ne vuole di tempo. Cioè, vabbè, tu hai tanto tempo, noi un po' meno, però possiamo aspettare. Non è vero, non è vero, il tempo stringe, la morte mi aspetta. Ma dai, ma non possiamo concludere ma così. Ma questo sarà il prossimo meme. Ma sì, ma, scusa, no, beh, non possiamo concludere così. Daniele, fai una domanda intelligente così con vedi, allora, vedi, appena passata una persona. Allora, la domanda intelligente è questa, siccome è passato Oscar, allora, una domanda. Vai. Siccome a un certo punto nel video rispondi sui giochi in scatola, la domanda intelligente è questa: ma quale gioco in scatola ti piace? A me piaceva un sacco il Risico. Beh, ci giocavo, quelle interminabili. La Kamchatka. Ricordiamo tutti solo la Kamchatka. Anche il Cluedo. Anche il Cluedo. L'ultimo singolo, non abbiamo parlato dell'ultimo niente. Nulla. Andiamo a comandare. Niente. Come andiamo a comandare? Andiamo a comandare quello vecchio. Appunto. Esatto. È l'ultimo singolo. Parliamone. Ho appena detto tutto volevo, molto interessante. Volevo dire, cioè, l'ultimo singolo è incredibile. Io sono contentissimo. Non so se avete visto, sta andando da paura. Sì, Marta. Almeno, cioè, questo ti rende felice. Sì, un sacco. No, ma io sono veramente contento. E la roba più figa che voglio dire è che siamo entrati 27esimi nella chart mondiale dei video musicali. Ma dai, sì. Mondiale, sì. Cioè, tipo davanti chi ci sarà? Mariah e davanti Carey. A me c'era Justin Bieber con cioè, Mariah Carey, ma occupa mezza classifica. Subito sotto di noi, subito sotto di me ci sono i Maroon 5 ed è una cosa surreale. No, ma è veramente, sta avendo un successo incredibile. Sono Il problema è che il testo è molto bello e quindi da esportare hai più pensato, complicato. No, ma magari hai pensato di farlo. È un testo di livello comunque, certo. Per i diciamo. Che va tradotto e bisogna. Ma magari rispettare... lo sta per fare, magari ci. No? Lo fai in inglese? No, non lo faccio in inglese. Hai mai pensato a fare una canzone in inglese? No. Posso andare? Sì. Grazie. Cioè, no, ma sai che trashata? No. È facilissimo scadere nel trash. Ok. E la difficoltà è riuscire a rimanerci nel non trash e riuscire a fare un prodotto che vada bene, ok? Ma detto questo, no, la mia roba no, non è trash. No, ma siccome prima dicevi, no, ma insomma, è solo una canzonetta, oh, ma che il testo non è... Prendersi meno sul serio è la ricetta di tutto. Sto ragazzo non si prende totalmente sul serio e per questo è un figo. Va bene. Esatto, potrebbe essere. Ti piace? Potrebbe essere una bella cosa. Cioè io ma sono poi un po' più a microfoni brava spenti di lui. Io me la tiro tantissimo. Dai, grande. Sì. Non è vero, le mie guardie... Sì, Marco, no, non sparare. No, sono amici. Infatti è arrivato prima con una limousine con le guardie del corpo. No, anzi, vabbè, se la tira di più a microfoni accesi. Ma non è vero. Ragazzi, fate i bravi perché è la vigilia di Natale. Senz'altro. E quindi io sono. La vigilia cos'è che si fa? Si va a messa? Si va a messa, sera. Si va a messa. Di politica durante il cenone con le zie. E il presepe, il Gesù bambino, no, si il lo sposti dopo. Lo sposti di notte. 25. Sai cosa facevo io alla vigilia? No. Lo dico, è brutto, imitatemi perché è straordinario. Allora, andavo a comprare in cartoleria sotto 5 tipi di scotch adesivo, sì. Insomma, Poi andavo di nascosto ad aprire tutti i miei regali per vedere cosa c'era dentro, no. E li richiudevo ad arte e nessuno si accorgeva di questa cosa. Il giorno dopo fingevo di essere contento di averle, cioè capito, tipo, oh mio Dio, non me l'aspettavo questo. È straordinario. Cioè trovavi dove erano nascosti, quindi? Sì, sì, mamma sì. Mia. Sì, sì, non trovavo. I vari tipi di scotch erano per usare esattamente, sì, quello, esatto, quello uguale. No, però usato. Solitamente alla fine quindi andate su sicuro, trasparente, varie misure, o sottile o largo. E quindi anche quest'anno non lo festeggi? Eh no, che cosa festeggio? No, vabbè, no, incontro mia famiglia, sto con la mia famiglia. Ah, no, oh, vabbè, con questo quadretto familiare. Bello, sì, sì. Natale in casa Rovazzi, no, ho notato che piace. Più si cresce, più si perde il senso natalizio. Ma sei un bambino ancora. No, io sono un ottantenne. Tu non hai, sì, sono l'ha detto anche l'altra io volta, sono vero, No, ma è vero, ti assicuro. Sì, sì, ho comprato delle pantofole di vitello con interno di pecora, pelo di pecora. Cioè, ragazzi, sono ottantenne. Abbiamo gli animalisti sotto, sono... quelli di Cruciani che arrivano, no, a menarci. No, attenzione, no, il pelo. Finto, sì. No, ma io sono veramente anziano, cioè le dico l'anzi sotto casa mia mi saluta. Salve signor Fabio, sì, portinaio, maestro. Mi chiama maestro perché penso che io sia musicista in realtà. Sono un idiota. E poi c'è il bar davanti a casa mia. Salve, cioè siamo un po' un pensionato. Mi manca solo il mio giornalino, sai, quello che prendi la mattina che ti butta il cane. Com'è che funziona? Non mi ricordo. Vabbè, guarda, il classico noi, cliché. Noi dovremmo sapere. Quella roba lì, quella roba lì. Io sono proprio un vecchio. Ho comprato anche un caminetto a etanolo che fa una puzza incredibile, però è bello. È bello, c'è questa, messo in casa. Dai, c'è questa fiammetta. Sì, adesso l'unico rischio, dai, è che il mio barboncino prenda fuoco da un momento all'altro. Come sta il cane? Bene, bene, bene, bene. Ah, non vive non mai più, non video. Vive, non vi... no, non c'è, non c'è. No, no, no. No, non c'è perché basta, cioè, basta. No, è uno scalatore sociale, voleva solo follower su Instagram e alla fine mi odia. Sì, no, comunque no, il mio cane sta bene, lo vedo poco, lo devo affidare a un mio amico ogni tanto perché purtroppo tra le date di G7 di sera, dove torno alle 6 di mattina, dove lascio lì di notte da solo, poverino, no, fa una vita d'inferno, quindi ogni tanto lo affido a questo mio amico, però sta bene, cioè vive proprio bene. Adesso gli ho comprato un cappotto bianco. Io me lo ricordo con la maglietta della nazionale. Beh, è un mito, il mio cane è un mito assoluto, sì, sì. Grande. Vabbè, lo ringraziamo Fabio per essere stato con noi. Sì, la prossima volta sarà a 300 milioni di visualizzazioni. Ma certo, la prossima volta non viene più. No, dov'è il ferro? Perché l'hai detto? Perché tocca ferro, non c'è niente, tutto di plastica. L'asta del microfono può andare. Ma non è... No. Se devi fare altri gesti apotropaici mi volto. Grande Fabio, un abbraccio. Vai. Ciao Fabio. Ciao. Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante. Mi parli dei problemi e della tua vita stressante. Vai in palestra, l'estetista, giornata pesante. I nostri nuovi filtri dove cambiano le facce. Lingua fuori, in testa fiori e bocca gigante. E della tua foto dove sbocci in discoteca. Aspetta che ti mostro il cat che me ne frega. Ed è tutto per questa puntata speciale con il meglio di Radio Tube. Abbiamo ascoltato tanti momenti che ci hanno tenuto compagnia in queste settimane, in queste ultime due puntate che abbiamo insomma dedicato al nostro meglio, a quello che ci è piaciuto di più. Dalla prossima settimana torna la nostra programmazione regolare, quindi torniamo insieme ancora Marta Cagnola e Daniele Bellasio ogni sabato dalle 17 alle 18 e dalle 15 l'appuntamento con il sabato del villaggio. Buon anno a tutti!